279. Timballo di piccioni. Questa pietanza, dicesi timballo, forse dalla forma che si approssima all'istrumento musicale di questo nome. Fate un battuto con prosciutto, cipolla, sedano e carota, aggiungete un pezzetto di burro e mettetelo al fuoco con un piccione o due a seconda del numero delle persone che dovranno fargli la festa. Unite ai medesimi le loro rigaglie con altre di pollo, se ne avete. Condite con sale e pepe e quando i piccioni saranno rosolati, bagnateli con brodo per tirarli a cottura, ma procurate che vi resti del sugo. Passate questo e gettatevi dei maccheroni, che avrete già cotti ma non del tutto, in acqua salata e teneteli presso al fuoco, rimuovendoli di quando in quando. Fate un poco di balsamella, poi spezzate i piccioni nelle loro giunture, escludendone il collo, la testa, le zampe e le ossa del groppone, quando non vi piacesse di disossarli del tutto, il che sarebbe meglio. Le rigaglie tagliatele a pezzi piuttosto grossi e alle cipolle levate il tenerume. Allorché i maccheroni avranno succhiato il sugo, conditeli con parmigiano, pezzettini di burro, dadini o meglio fettine di prosciutto grasso e magro, noce moscata, fettine di tartufi o, mancando questi, un pugnello di funghi secchi rammolliti. Unite infine la balsamella e mescolate. Prendete una cazzaruola di grandezza proporzionata, ungetela tutta con burro d'accio e foderatela di pasta frolla. Versate il composto, copritelo della stessa pasta e cuocetelo al forno. Sformatelo caldo e servitelo subito. Con grammi 300 di maccheroni e due piccioni farete un timballo per 10 o 12 persone, se non sono forti mangiatori. Volendo, potete anche dargli la forma di pasticcio, come quello del numero 349.